Artù, come Artù, sto a posto. Ehi, l'antenna sotto il letto, non c'ho sempre, dai. Va bene, dai, va benissimo. Ehi, l'antenna sempre lì, sotto il letto, in Livoghiandia. E sarà il tempo, cosa ne so io? Tutto a posto, sì. Va bene, aggiustata, dai. Dov'è la G-Drink? Ma io ti ho detto, tu dirò e pulisci bene con la benzina. Molto l'hai pagato. Cazzo, bebè. E un bel rinasso. Tant'era un bel rinasso. Sì, perché la benzina non ce la faceva. Era troppo piccola allora di qui. E dico sì, a Roma come ho messo bei bucati. La porta vedi in via Sorso, dove la porto io, alla piaggia. Capito? E poi che vi sei riuscito. Andava bene nera. Cazzo che tempo, che giornata noiosa oggi. Ehi, non c'è più nessuno, non è vale più la pena. Non c'è più nessuno, tu, ma tu, non vedi più un'anima. Comunque la modulazione è massa la radio. La modulazione a massa mi ascolti. Andare, dai. Andare. Guarda, se avete dove dico io, sul tetto, cazzo, il culo è passo di schiattavo. E se devo mettere, metto un'antenna a 50, cazzo bumera. Oh, un'antenna se la meglio, se la fa la fai come si deve le cose. E non so, ma io l'antenna non ne ho, io ce l'ho dentro l'antenna. E lo so, ma bumera non la mettete mai. La bumera, cazzo, ho iniziato io con la bumera. Ma cazzo roba di TV è vazia. E per quello, tra bumera, Grand Prix e via dicendo, non vado con una cilindri. Non c'è nessuno qua. Tutti spariti, tutti a dormire sono. E va dove? L'ho fatto bene, oggi era una bella giornata stamattina. No, ma che moto è? Devo pararsi pure che l'ho già vista la moto. Non ce l'ho presente adesso qual è. E già ce ne saranno altre. Almeno. E beh, Antonio, chiama, vendo, scambio, compro. E beh, prostituta. Che cosa? Ma sai che è una prostituta tu. E allora, ho visto via le Zara, ho visto. E ma lui tanto per arrotondare anche lui lì. E ma prima sì, ce n'erano di più. Ma già ce n'è, sì, ce ne sarà qualcuno ancora. Sì, già li sento, poco a poco già li sento. Ma che antenna stai usando? Se ce l'hai sul tetto, la finestra. Ah, ma allora tu ce l'hai posizionata dalla parte della Budi, giusto? Sì, ma verso la Budi. In pratica dove ce l'ha anche Danilo Snoopy. Ma lo so, Snoopy sta più giù, tu sei più in su. E già ho capito. C'ha l'equalizzatore questo incorporato, guarda, adesso te lo inserisco, addirittura era disinserito. Aspetta un attimo. Allora, così inserito, vedi un po', ti puoi immaginare. Vabbè, lascio così già, e poi il resto è a zero, ma chi è zero? Guarda che era. Ehi, guarda, ti ho mandato la foto. Cos'è, Artù? Ehi, già venduto, cazzo. Stavo guardando, ma sì, c'era l'amplificatore, quello della doppio CD, doppia cassetta e il sintonizzatore. Cazzo, 120 euro non la fa subito, e il giradischi c'era. E cazzo di vedere, quello è un impianto serio, ma lo stai dicendo tu. Cazzo, quello lì è un impianto serio, negli anni 90 quello lì era un signor impianto, e tuttora è un signor impianto. Io ti sto parlando di impianto di casa, non un impianto di fare serate di perfuri, cosa mi interessa a me a far karaoke. Un impianto di per casa, e lo so, quelli sono altre cose, ma non mi interessa quello lì. E Luca è andato, se no? No, sono qua, sto smontando una cosa, ma l'ho portato, un amplificatore audio, ma mi pare che non me ne posso proprio nulla. Pagando luce, allora lo fermo con cosa o no lui? Ma di cosa si fa vedere? Non massillare la vita, Sonia. Su che andiamo, su che. Vartu, vartu. Ma mi hanno arrigato, ma sicuramente funziona. Ma roba vecchia, roba vintage, capito? C'ha tre potenziometri, il fono, poi vabbè, tassivo accensione, uscita due microfoni, due jack cuffie. Io non me ne posso tutto. Ma lampa seduto, cosa cazzo, roba vintage, non vinto, lampa seduto. Aspetta quando la foto. E quanto lo sta vendendo? Cazzo! Ui! Che baraluia, cazzo! Ehi, cosa è Amazon? Cazzo! Una di lui che ha giocato da far culo, lui! Ah, per lui funziona! Guarda, te ne mando uno bellissimo a tu! Baraluia! Anche questo, lo stesso c'ha l'aspetta... Però è carino questo, Ehi, RCF è quello. Ah, ma non mi interessa di radio così, cazzo non devo affissi io. A me interessa, come ti ho detto, quello tutto a pezzi, sia casse, amplificatori, via dicendo. E prova a mandarlo, allora. Rigido. Rigido. E ma che è per fuori, da fare serata, da me guardi. Ma magari si sta domandando a tu. Io stavo cercando a Fiorellino, l'amico mio. Oi, Brigido! Fiorellino! Ebbè, Natali! Ebbè, Emanuele! Tutto a posto, sì. Ehi, tutto a posto, è da mettere a posto. Ehi, vabbè, l'importante è che ci sia la salute. Allora. E che c'è Bombolino? Bombolino! Oh! Allora, cosa mi racconti? Allora me ne vado, cazzo, io non ne so di queste cose. Caffa. Ma non meglio di sapere un po' professionale, a me si mi ricorderà da tanto. Io ero grido, e tu non andà. Caffa. E ogni tanto qualche cosa l'ho fatta. Però io mi posso pagare, non vado a grazie, io mi faccio pagare. Non ci parlo io grazie. È così che deve essere. A chi tu furai dai di nappa ma comprarti chissà roba? Non l'hai furabi, no? È giusto che tu ti faccia pagare. Un bel soldo stretto. Non ti voglio dire che ti peso, però. Un bel soldo. Me lo posso immaginare. Roba che sono molto professionale, dico c'è un'altra, non devo fare certe cose. E invece la serata è in bravo. Guarda, io ho le mie DB che devo fare le banche. Chiamano DB, tecnologica, cioè, le casse. Non se ne avete fatto, se non fanno più bravo, i vini. Ma lo sanno, lo so, c'erano cioè, dei bicchieri che sono più bravi, se puoi immaginare anche un po' questa cosa. Sì, già me lo posso immaginare, io ho visto certe casse camminando da sole. Infatti ti faccio appare un modubam a bloccarli, chissà, amico mio, a chi una ne avvarendo in terra, a chi era una sopra l'altra, no? E le vibrazioni le fanno camminare, cazzo. Ma questa è una cosa esagerata. L'amplificatore era a due solo, eppure la cassa se stava per cadere in terra, si non mi avvisavo io un gaggi in terra. Ah, questo c'ha i cosi, quindi mi accanto questa fisica. Non lo puoi pensare dove c'è sotto. Domani come fare in terra? Oh, non ho alcuna idea. E vabbè. I tuoi sono quelli che sono bloccate, infatti deve trovare un modo per bloccarle queste casse, perché se no si mettono a camminare in giro per la casa, non ha giù compreso. Ci vuole poco, si mette con l'affare, dal tutto, però non ci ehi, qualche modo già lo trova per bloccarle. Quella di sopra ne stava cadendo in terra, se cadeva si faceva in 2000 pizzi. Quindi evidentemente c'è... Io ando da dei possibili che non sono bilanciati assai, perché le mie sono abbastanza... No, e i watt sono, certo, sono cazzo enormi, e poi, cazzo, è una cosa, guarda, con l'amplificatore basso basso, io con le finestre chiuse, le sento qua. Però bisogna capire, cioè quest'uomo deve... Ma la coppa non si fa, una carta, non si mette il mio collo, metto una cosa piccolina si mette a te, però se si fonde la roba si fa quando poi se li metti all'aperto quelle non so cazzo cazzo dentro un appartamento una cosa ma nella pianta o mettere in un posto un modo aperto perché può esserci. Già lo so, infatti in casa non vanno bene, lui se le ha costruite e fatte perché è un tecnico, però per casa non vanno bene, quelle sono casse da concerto, cazzo, ti sto dicendo che me l'ha fatto sentire, non distorcono niente, mi guarda una musica veramente bella. Davvero un proiettile. Quello è un tecnico e se ne ha fatte lui le cose, c'ha questi due amplificatori che cazzo è una cosa micidiale. Guarda, la miglior cosa sonora, quella di qualità, non fate nessuna. Non lo so di cosa sono fatti, io sono Gusuru che si vuole ne a camminare in casa sua, la porti in antallato, la porti, ma posticciamente mi, perché ha appena trasloccato qua e deve cercare il modo di fermarle e metterle in, come si deve, in modo che non. Piuttosto stai fatto. Che non facciano danno. Ma me lo fai? Ma tutti fuggiti se ne sono mia tu. Ciao, tu sei il miglior conduttore. Sì, vabbè, in ABS non sono male. Il miglior conduttore con quelle. Perché è così e basta. queste le ha costruite lui proprio, perché uno che se ne intende, capito? Non so di cosa siano fatte, però sono delle cose esagerate. E per fare concerti quella roba lì. Quindi non è vero? No, patini in casa. Eia, mica si parla di kilowatt e di potenza. In casa cosa cazzo di ne vai? È meglio già fatto in bambù. Come sono qua, no, più che vederle bisogna sentire, sentirle bisogna, capito? Più che vederle. Mi dici le casse che c'ha di là. Che ne si dà chi da curi per i ritti. Eia, ti sto dicendo che è una cosa assurda, Antu, io no, con i doppi vetri, sudancato, intendi questa bella musica, e non sapevo da dove proveniva io. Ed era lui che stava provando l'impianto. Ma basso basso mi dice che era il volume. E infatti la volta che sono andato a casa sua, in effetti mi ha fatto vedere che era basso basso. Suru, cazzo, e poi così intendi, beh, e non distorce nulla a me. Guarda, abbiamo due di lame, l'avevo comparato un amplificatore così. Non so, ma queste sono costruite artigianalmente, perché questo se ne intende, capito? Gli è sempre piaciuta la musica hi-fi. E guarda, io l'ho sentita e ti do di senti che cazzo è una cosa micidiale, perché tu non senti il minimo di, la minima distorsione, la musica bella pulita, guarda, è tutta un'altra cosa. Carusogu, a beso mio c'ha roba di 8 casse, questo qui, cazzo. Ti sono dicendo? Qualche giorno glielo diciamo e ti porto a vederla la situazione. E ti sono dicendo che di avevi ragione, Natalia. Già lo so che tu te ne intendi. Io non me ne intendo molto, ma la musica così a me piace, senza distorsioni e cose, che si senta bella chiara chiara, che si sentano tutti gli strumenti. Cazzo, ti sono dicendo, è una cosa micidiale. E lui se l'ascolta lì basso basso, lo mette, perché sennò cazzo, si lassi poco poco di rimoreggia nei vetri, non solo d'altro. Se le ha fatte lui, c'ha questo amplificatore qua, perché l'ha comprato in Germania, poi ne ha un altro, c'ha due amplificatori, ti sto dicendo che è una cosa, ma è pure cazzo, è che qua non c'ho posto, io dove me le metto queste cose, non me li posso punire in E già lo so io, quelle che c'è tu sono come si deve, però Ghizio è un'altra storia. In chi vi andava in un teatro manno a fare, allora sì. Nessuno. non è per appartamento quell'impianto che ha lui. A lui gli piace sentirla così la musica. Però cazzo, si intende burufura. Quindi ci dà una sussiata con i belli dritti. E l'amplificatore era a minimo. E così il secondo piano ha detto, ma no, che la discoteca, se. E quello di sopra lo sentiva lo stesso, e ne è uscito a vedere se c'era la discoteca. A tu, mi sta chiamando però a vuoto, attendi e accendi, poi se funziona non mi interessa. Oh. Ma ci attaccato le fili, funziona 12 volte. Ma cosa me ne voto? Ho il banco in vendita, ho il banco in vendita. Cosa me ne voto? E cos'è lui? Aspetti quando va fuori. Intanto sto accendendo il computer così lo vedo. Oh yeah, su cambiamo, su, su. Suga! Su cambiamo Natalina, su. Natalina. Suga! Mi ascolta Bombolino. Ti ascolta. Mi ascolta Bombolino. Ah, già ti ascolta. Vabbè, l'antenna sotto il letto. Il RCF mi intendi, no? Adesso si sente la giocanica su internet, la battenza. Dove qua? No, niente. Ci sono due jack davanti, i due attacchi di microfono 1, microfono 2, un tastino fono reg, i tre potenziometri e il tasto di accensione e spegnimento. Allora cominciano a mare i bulli a suonarmi a tu. Cosa, beh, pure, capiccia, chi sono ad esempio? Meglio di Emanuele, abbiamo il microfono a tu. Emanuele, attento. E cai, se ti va, se non a te, lui. Sei attento, a tu, non dare il microfono che si trova in bocca, Allora, a bombola e mi piace, me. Boh, mi sembra il caldo. Emanuele! Ehi, Natalie, dimmi. Su che andiamo? Su che andiamo, dai. Ma te lo siamo diventato, su. Oh, ma te sei già, ma che deve essere una baracca in terra. Ehi, ma noi lo chiamavo il Freddy Macquarie, me. Ma che andate a solo di Macquarie? Ehi, Antonio, vuoi diventare Carlo Santana. Cazzo, Carlo Santana. Oppure Sloan, Eric Clapton, quelli già la sanno suonare la chitarra. Bob Dylan, i nomadi, quelli sì che sono famosi. Jimi Hendrix, quello lì sì che suona. Atari, ascolti. Eia. No. Ehi, mi capisce brava al vino, anche coso, mi va un nome. Gabriele Peano. Capo l'ha variato, che schifo. Natalino Mercoli, Emanuele ha fatto il conservatorio, frate in pelle zona. Sentito là, Eric Clapton, quello già la sa suonare la chitarra. Emanuele. vanno a livello di Ghicci, dai. Lei immaginava sempre che a livello di questi ce ne vuole. A volte ci trattava come delle contadine. E ci sono due CB che suonano bene qua. C'è Stefano Principe Azzurro che suona la chitarra e la tastiera. E c'è anche Vittorio Volpe, tu li devi sentire, quelli sì che sono mostri. Suonando e cantandomi, li devi sentire. Di perder nulla. E anche a Stefano io ho sentito, bravissimi tutti e due. C'è tutto presente. Io lo stesso li ho sentiti, io sono andato a casa sua di Vittorio e l'ho sentito suonando, e suona sia la chitarra che la tastiera, e così fa Stefano lo stesso. E cantano pure bene. Vittorio, se lo senti cantando le canzoni dei Beatles, pari rudisco. E lui ha suonato in complesso e tutto, sia lui che Stefano. Stefano addirittura ha suonato anche nei Night. Cazzo, sono persone. Stefano ha studiato, pure Vittorio ugualmente. Cosa? A chi? A Vittorio. Me lo posso immaginare. Mi piace. Sì, sì. Lo so, però lui giustamente è abituato a sentire altra musica, Vittorio. Stefano ugualmente. Noi si buoni a cantare canzoni da Sarisi, chi si no? Lo so. Non la conosco la figlia, però so che fa questa cosa qua. Cosa ti volevo dire? Io ce l'avevo una chitarra qua, cazzo, l'amplificatore pure. E Miraggio Vinduti, cioè ho venduto sia l'amplificatore che la chitarra a Bernardinelli, un altro che non suona. Quello che c'ha il negozio dei mobili qua giù. Siccome lo conosco e gliel'ho venduta io una chitarra elettrica insieme all'amplificatore Marshall. E anche io sono amici miei, quindi li conosco e insomma so anche come suonano e tutto. E cosa? Bernardinelli, quella chitarra che gli ho dato io, ha preso e se l'ha tutta modificata. Cazzo, l'ha fatta, non gli ha toccato né la verniciatura né niente, no. I cosi di dentro ha cambiato e l'ha fatta diventare un mostro quella chitarra. E abituato alla musica sua è quello, lo stesso. Cosa tu? Non ti sento bene? Io ho capito. Conosco anche a Cosa, a Mauro, il figlio di Mariolino Chessa, un amico di Babbo. Quello suona lo stesso. Già lo so che sono dei mostri. Lo Babbo di Mauro suonava la dromba. Babbo, mio padre suonava il sax tenore, suonava Babbo. Io stavo imparando la chitarra, ma dopo è andato più tempo. E vabbè, ma per tutto ci vuole la passione, se no non fai nulla. Capito? Bisogna avere la passione. Vittorio, per esempio, non mi ha mai voluto insegnare, per esempio. Ed è un amico mio. E lo so, mio zio per esempio suonava la batteria, che è mio padrino pure, e non c'è strumento più difficile della batteria. La batteria è veramente difficile a suonare, perché ci vuole indipendenza sulle braccia e sulle gambe. Eppure ho visto una ragazza io suonando la batteria che tipo ne rimane in capo. Oh signor. Manuele, è andato te ne sei? Eia. Ehi. Manuele. Comunque, Chi è? L'ha detto che non ti impara nessuno. Basta andare a studiarla, la chitarra, se tu vuoi imparare a suonare la chitarra, ci sono i maestri che ti insegnano proprio a suonare la chitarra. Ma suonarla beh a vero, però. Oh, quelli sono morti. Già ci sono i maestri bravi. Se addirittura c'era Ottavio, mio, un CB, qua, era già anziano questo qui, quando l'ho sentito io suonando. Beh, se tu lo vedi suonando, ti pone le mani in capo. Prendi Rudango, Bazia, solista e accompagnamento da solo. Lo so. Comunque ci sono le scuole per imparare a suonare la chitarra, qualsiasi strumento che vuoi. Bisogna che ti imparano a suonarla. E ti insegnano la musica classica, l'altra. E poi una volta che impari a suonarla, sono chi su chi vuoi tu. Per esempio quello che ti ho fatto sentire poco fa, quello non l'ha insegnato nessuno, è autodidatta, ha imparato lui a suonare la chitarra, ma è un mostro. Che imparano da soli, figurati. Buonasera a tutti, dai, già ne do più lungo. Allora Anthony, ciao Natalino, ben sentito anche a te. Non so se ci sia altra gente perché è acceso in questo momento, stavo finendo di cantare adesso, dai. E canta, canta, che ti passa tu? C'era Manuele, c'era Luca qua. Adesso non so se ci sia, mi ascolto ancora. Poi ci siamo io e Bombolino. Avanti Gianni, buonasera. Ehi, buonasera anche a te, dai. E allora, cosa mi raccontate di bello? Sento, state parlando di chitarra. Chi è appassionato di chitarra? Ehi, vabbè, tu. Nessuno è andato imparato, eh. Basta mettersi la canzone del sole è la prima che si impara perché sono tre notte. Dan dan dan, dan dan dan dan dan dan dan. Quella lì è la prima che si impara. Oh, io andiamo bene, andiamo, giallo. Carta, ma vuoi? Poi già, buonasera. Bello forte, complimenti. Adesso sì che sei tu. Sempre l'antenna sotto il letto, cioè. Cosa, Samuele? Ma, Manuele. Ho sempre l'antenna sotto il letto. Eia. Ma adesso già arrivi bene, dai. Anche la radio è un bel forte. Io non ci voleva credere che usciva così, Manuele. Io gliel'ho detto, adesso ti sentono tutti almeno. Invece di metterla dove era, l'ha messa sotto il letto e c'è più forte. Che baracchi lo stai usando, Manuele? Un portatile. Ma va. Ma va. Ti va un microfono amplificato anche se mi rendi in giro. Un portatile con microfono esterno. Che portatile è? Ah, 50S. Vabbè. Comunque esci bene. Portatile o no? Sicuramente c'è una di quelle stazioni basse. No, non ne ho di base, non le conosco. Base per altezza e misura. E mi calcolo l'ipotenusa adesso. Oh, yeah. Seno più coseno uguale. Guardi, metto mano alla calcolatrice scientifica. Tangente, Natalia. Ma che tangente, non ne pago tangenti a nessuno io. K.K. Oh, yeah. Sì, mi sono fatto una bella cantata, mi sono divertito. Io ce la cantiamo a Sasanna. Oh già. Via. Solo la radio ha mancato. Anche segnale, se 9.25. Ah, andale dai, vuol dire il tempo, dai. Ma cosa cazzo il tempo, Manuel? Allora, da ora in poi tutti con portati, lei che c'è fuori. Da ora in poi ci compriamo tutti i portati. Dovrebbe essere il tempo, già. Allora, il tempo, quasi di senti. Allora, ti hanno esempio se ci perdonare, tu. Non è vero, allora sai cosa sta facendo? ha preso e ha messo il braccio fuori, lì, con uno attacca l'antenna e con l'altro e con l'altro lo toglie fuori, è per quello che c'è forte. Sto controllando se ci sono state orarie. Questo Manuele Birichino è. Ma calmo, io invece ho fatto Splash, se ti piace, non lo so. Ascolta l'altro Splash, a me mi ha tirato subito quando l'ho sentito. Ho detto che io stavo imparando Splash, quella canzone nuova. Ascoltala se ti piace. Io invece mi ho cantato la batterina. Allora ho fatto Vivo per me, ho fatto anche la parte della donna, cazzo di risata. E qua. E vabbè, ma se vuoi impari, non c'è problema. Anche io lo sai cosa faccio? Lo chiedo a Alexa di mandarmela, no? Poi la blocco pezzo per pezzo e me la faccio. E poi la faccio tutta in testa. Buonari due cowboy, buonatari. Un buon boy. A insalata lo stai facendo. Lui, cazzo mi lancio di volato un piatto, una vaghetta, ma ci mangiando, te qua, fufi. Su che andiamo. Cazzo, dici così piazza a me, mamma mia. Lo volevo fare con le patate, solo che voglia tempo, così una patata, l'ho fatto subito aliata. Per te, mamaglio, e per Aloni. Buonare i due, cazzo, a me mi piace così, agliata mi piace, la verità si dica, troppo buono. Cazzo bella, l'orchestra, beh. Io la bonghio l'orchestra, e no. L'abbiamo capito che è lì. Ma tagli mica te lo manda. Lo so, ma non me la fa. Ma che sono i nomadi? I nomadi sono Natali. Su che andiamo? Arturo, l'audio non le dà molta... dovresti farmela dal vivo. Dal vivo sì, ma così non rende. Cappaga. Vabbè, serate, facciamola. Aspetta, ti faccio sentire una canzone. Quella che avevo io mi la chitarra e cocchente. Quella la canta Luca Pugioni, che cuocuomane. Ma canta in tre due a bongo. A sedere sa Luca che non ve, a sedere sa che da buio entra sa rabbieggia. E canta sassarese, già lo so. E già me ne sono accorto che era a casa tua. Ma fa canzoni anche normali, oltre che quelle corsicane, sassarisi, fa canzoni anche normali, diciamo, di quelle italiane. Eh? Ciao ragazzi. nella corsicana mi piacciono bene a me le canzoni. E lui le canta quelli lì, con le corsicane. Sono belle. Il Luca sa suonare la chitarra. Tu ma ti non vedi sul Capodanno che abbiamo fatto il karaoke al baracchino? E ho fatto tutti i canti. Natali, tu non hai partecipato. Un Capodanno abbiamo fatto il karaoke al baracchino dopo mezzanotte, ne ha diversi mesi. E me lo posso immaginare. Io che sono dopo cucato a mezzanotte, via, su che andiamo? Non vengo per la vostra via a guantare. Guarda voi, avete fatto il caporale, io me l'ho fatto il cavaliere invece di tutti. Quindi c'è sempre qualcuno che è meno di te. Se mi ha già fatto 7 servizi di notte di seguito, cazzo la faccio domanda dura, ma ci ho beccato la 621, ma ci ho beccato. Certo che va bene, su che andiamo, vai Natalino. Su che andiamo? Cos'è già, non ho capito. Ho detto, come fate a fare questi servizi, di che tipo? Siccome io faccio servizi anche nei concerti, io ho fatto servizio anche quando c'era Vasco Rossi a Cagliari. In pratica oggi sei lì, domani sei a Alghero, dopodomani sei a Urbia, capito? Servizi così staccati. È più bello così, no? Sì, è più bello, sì. Almeno vedi gente, se non asso. Il giorno che ho fatto il servizio a Cagliari che c'era Vasco Rossi, cazzo me ne ha poco, poi me ne ha detto all'aria. Avvio, forse c'è così sette valli, quindi me ne ha poco detto all'aria. Un danno che si rappava lì, è andato al barco. C'è qua, allucinante. Lì ci voleva Antonio. E allora? Lì ci voleva Antonio proprio che... Tu cosa lì? Voi state dietro se c'è la moglie dietro. Vai babbo di famiglia, che ti rimpazzi il bovaraccio, che adesso non si può esprimere. Adesso deve fare il padre serio. Adesso è una persona seria, lasciatelo in pace, per cortesia. Cazzo, sono con Giannonno io. Natali, cazzo Giannonno mi ha levato. Prima io i nonni li vedevo anziani, vedere un giovane nonno mi fa strano. Hai adorito. Che io per nonno intendevo sempre persone anziane, capito? Invece adesso ci sono nonni che sono giovani. Cazzo, non la scappare. Dimmi tu. Lo so, Pierpaolo era più piccolo di me. Io ne ho 63. Il bambino non l'ha conosciuto bene. Quello lì è, diciamo che è il desiderio di tutti i nonni, conoscere i nipoti. Non è certo che sarei contento. Aia, mi stanno bruciando gli occhi, cazzo, non capisco perché, a una certa ora mi bruciano gli occhi, mi bruciano e mi si fanno rossi. E la vecchiaia quella è già. Per me è la primavera, cazzo. Non c'è altra cosa che i bambini piccoli a mettere allegria nella casa. No, è una cosa naturale. Succederà. Però diciamo, più tardi è meglio è, perché i nonni devono essere anziani, secondo me sono giovani. Quella gente che è diventato un nonno a 40 anni. Magari se cui vado giovano, ha fatto i migliori giovani, e chi di a un certo punto a 40-45 anni è diventato un nonno. Ho capito Natali, però io mi ricordo, per dire, quando gli amici mi dicevano io andiamo da nonna un attimino, cose, sono tutti anziani, capito? Tutti anziani nonni, per quello io forse mi sono fatto questo ragionamento qua, capito? lo so che c'è gente che sono giovani, da giovani sono lunghi, però la vedo strana, mi dà cosa. Non è regolare, dai. Troppo apprittata la cosa, già lo so. Anch'io li ho visti sempre anziani, nonni, però si succedono questi cosi, quando uno si curiva già giovane, si rudiva in città, si fa il figlio da giovane. Per me è la nuova generazione che fa queste cose. E certo, i genitori vogliono il meglio dei figli, è naturale quello. Ormai va. Bravo Anto, fallo versante, io te l'appoggio sempre, vai Natali. E gli appoggio anche io. Manuel, che tipo di microfono stai usando? Normale, è tutto normale. Normale? Ehi. Ma se te ne vedi gli attacchi la stati, cosa si dice? E gli attacchi. Sì. L'ho sentito facendo le prove a Luca col tuo microfono, ho detto sto facendo gli attacchi, così vedo se esce bene. Non è la roba a me allora. E lui a Luca. Vabbè, già mi sa appena rientrato. Che c'è freddo fuori, Cioè, ma facciamo un po' di mal di gola, forse io mi ho preso freddo, che cazzo ne so. Colpo d'aria. Vado a fare una commissione per mamma, sono rientrato, ma freddo, venne da cancarassi. Eia, ciao Luca. Eia, ma sta lì, quella roba là non è la mano. E adesso gli mando la canzone sua a Luca. Udusai. Cosa ti credi? Non ti ho visto ascoltandoti questa canzone. Cazzo, c'è musica questa? Mamma mia, è sempre musica da tenere bene. She's alright, she's alright, she's alright, cocaine. Quella lì è Milù. E allora, sei cocuomane. Cinco c'è pure. Ehi, Aru, ciao, come sentito? Ma sei più basso, fai una 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No, adesso è più Mattessi. No, va bene, allora va bene, perfetto. Mia macchina sta usando? Portatile, cazzo. Ma lascialo. Ma parlo con visibilità di Manuel. No, non portare, faccio solo viso. E c'è bene. Aspetta, ma se non la giacca il radio, faccio tutti i dati. E usare una di quelle antiche, non va bene. E quale? Quelle antiche che hai, quelle radio che compri. Ah, vai. E che le cazzo devo fare? Adesso giovami al giorno. Il microfono l'attacchi. Cioè, sai che la frequenza. Perché non mi ascolti tu? Ti ascolto forte. Sì, dai, già va bene, là. Lasciamo che non usciva. Dici, urai, e tu non avevi rigridita, acquistavano i tutti, Manuè, eh? Ma sa che cosa, Condo, Marcolino? Se no, se hai fatto una prova con la turbo 2001, uscivo quanto l'antenna che c'avevo sul tetto, e messa così. E quale già? Con la turbo 2001. Ma ce l'hai in macchina, quella che stai usando in macchina? No, adesso ce n'è un'altra in macchina, non l'ho più messa perché me ne ha stracciato la... il vento mi ha staccato la magnetica, mi ha fatto danno, mi ha graffiato la cappotta e l'ho cambiata, ne ho messo una più piccola, che rende bene ma almeno è leggera. E se andava il cazzo nel derrasso? A turbo, ne ho due in vendita. Ne ho due, una che non ho mai usata e l'altra con la magnetica. E c'è un market. E... devo fotografare, devo scendere dalla mobile e fotografare. Una addirittura non l'ho mai usata, è nuova di zecca, perché ne avevo perso, sono andato a fare la spesa, mi dava fastidio dentro la macchina, l'ho tolta per metterci la spesa, poi me la sono dimenticata, sono goduta di non vera più. E poi me l'ha trovata a San Vino, cioè l'ha trovata il cugino di San Vino nella rotatoria, siccome sa che San Vino modulo, l'ha presa, pensava che l'avesse presa qualche capo, invece me l'hanno detto e ho chiamato a San Vino e me l'ha tornata, ma nel mentre ne avevo comprato un'altra, quindi non l'ho mai piazzata. Ah, andava dai. Vabbè, metti la su un massimo, ma le persone che riesce a vendere, vai. Ecco. E vabbè, una persona, una mi aveva detto di metterla da parte che la voleva, l'altra quella con la magnetica è anche tarata, tutto quanto, uno e uno di stazionare. Andava, vai tu. Attimo, sono al telefono, un attimo. Sì, Antonio Momo va bene quella. Ma mi fa bene anche un momento. Perché guarda che lo dico l'altra volta la pensata da 2001, quanto è là, ma proprio 2001, quasi 2 mesi. Che cosa? Lo dico della cosa. Che la... cosa c'è tu? La... cosa stai usando adesso? La boomerang? Sì, quella che l'ha beccato. Ho capito. Sì, quella lì sì, quella lì ce l'ha. Chi sa cosa fa? Ma tu, se tu gli fai una piastra in acciaio, va benissimo. Una piastra è, gliela attacchi alla ringhiera, gliela attacchi dove vuoi, esci voce. Quelle ti va bene nella zona e se dopo devi andare fuori non ti sentono più, certi posti hanno, cosa ti va bene, non la metti sul tetto oppure sei limitato con quella lì. Sono limitato, però cavolo, in zona già va bene, può andare bene, ma se la metti sul tetto magari ti rende di più. Sì, ma non sono antenne da tetto, già, non sono antenne da tetto, quelle sono da balcone blu, quindi cazzo buona divisa antenne, a patamone blu. Sarà messo sul tetto, a modo tuo, sarà messo sul tetto, lì la sta parlando una piccola, io sto parlando della grande, se questa io la metto sul tetto, altro che patamone arrivi, poi lascia perdere. Sì, sono antenne che arrivano fino a un certo punto, arriva poi come ricezione non c'hanno niente di ricezione. Ah, tu, quelle lì sono antenne che sono state sempre usate, diciamo, per in sostituzione di altre antenne che non puoi mettere sul tetto, ma non sono performanti al 100%. Sì, tipo un profeta arriva da tutte le parti, però deve essere anche la zona buona lì. Sto dicendo che se la metto sul tetto, io ce l'ho messa sul tetto. Allora metti la sul tetto, tu. Io per mettere una buma sul tetto non ne muovo nulla, tu, sinceramente. Avevo tenuto un'antenna di macchina del terrazzo. Vabbè, ma se uno vuole mettere un'antenna che funzioni, piccola, che non si veda molto, ma cosa c'è? Guarda, avrei messo un'antenna come un tipo come quella di Natalino, un tipo come ce l'avevo io, che ce l'avevo in giardino, cazzo diceva una bomba, il giardino, pensa tu. E non era né sul tetto, né sul balcone, era in terra, nel giardino, pensa tu. Dicia giù la bocca di lo stile scia dalla gabbiuria. Guarda, io ci siamo tutti e due sul tetto, non cambiava quasi niente. Se tu devi stare sul tetto ti devi mettere un'antenna buona e basta, non buona, ma anche antenne suisse. È puro, funziona. A funzionare funzionerà, ma non sono antenne buone, non sono antenne da modularci. Vai già. Sono, diciamo, antenne che si usano in sostituzione quando non c'hai altre antenne e vanno, se ti accontenti vanno bene, ma se la metti sul tetto, anche io gliel'ho detto, metti un'antenna come si deve, non vi messi più. Appunto, non è che rimuovo una bumera, no, assolutamente. Per mettere una bumera neanche ci salgo sul tetto. Vabbè, io non ho messo quanti vuoi. Sì, a tu, per carità. Padrone, le faccio che vuoi. Questo è un consiglio che ti stiamo dando. Poi, vedi tu. Pagare, anche perché la boomerang è boomerang direzionale, un'antenna direzionale, quindi tu la punti in un punto, arrivi a quel punto, poi dietro non ti tendi nessuno. Però prende perché c'è lo stilo centrale, capito? Prova, tu prova, vediamo un po', vediamo un po' se rende. Se ti serve il palo, guarda che io ne ho uno nuovo da un pollice. Cazzo, ecco, vediamo. Se io vado su testa volevo mettere io la cosa, la gimbal volevo mettere io, però me lo consiglio, non so. Quella beata, quella che ha fatto un se vuoi pure un'antenna che non si vede, ma pure la gimbal, la gimbal è un beata. Ma si vede però, se tu vuoi mettere l'antenna che non si luci molto, la gimbal non è adatta. Quindi tu dai, fatti un po' i calcoli come devi mettere. Avanti Luca, Natalino. Io può fare meno che un'altra capicciuria, uia. E vediamo, dai, vediamo un po', io ti auguro che vada bene. Però si sa che sono direzionali quelle antenne lì. Vabbè, dai, io vi saluto, devo portare giù il cane. Ci sentiamo magari dopo. Verso le 7:30 vi accendo, dai. Ci sentiamo. Ciao! Ciao già, ci sentiamo, alle prossime. Vai Natale. Ciao già, alle prossime, grazie per le quattro chiacchiere, dai. Avanti Antonio. Ciao già, ci sentiamo, ciao. Ehi, comunque adesso mi devo accontentare di questa, poi ci penso. Andiamo bene, andiamo. Vabbè Luca. È andato via da là con 1:30 passate, perché adesso sono arrivato alle 2:30, ho fatto il pre-ricovero, ho fatto 50.000 domande, comunque adesso per quanto ho anche i denti mi sono sempre messi a posto, telefono coso, operazione addirittura. Allora stanno mi ha controllato il dottorino, se vuoi ti dica. Non ha bisogno, ce l'ha fatto. Non può mai dire. L'unicamente si era a farmi le domande perché loro sono mi sembra anche una cosa giustissima. Allora, il tuo problema è dei denti, sai cos'è? Che male se ne hai più di uno guasto, nel senso che ti intubano, non va bene, capito? Te lo spiego io perché te li controllano, perché se hai qualche apparecchio che si muove te lo fanno togliere, se hai punti te li fanno togliere, tutte queste cose qua, perché ha ragione Luca, ti rubo un goodimi quando non stai, quando c'è l'anestesia. Perché ti intubano, capito? Con l'operazione che devo fare per intubare. Ho fatto due esami, me li controllati, se vuoi ti dica. Boh, cazzo, mi dieti, mi sai. Anche a me me l'hanno detto, se c'avevano apparecchi che si muovevano, eccetera. Dai, ti intubo io, Luca, fregatene. Infatti io non avevo denti che si muovono, sono tutti fissi miei. C'ho gli impianti e non si muovono. Ma cosa vuoi tubare tu? Vai, cuocuoma, tu sei un cuocuoma, sì. Ti intubo io a te con la pompa sommersa. Come ti intubo io non ti intuba nessuno. Vabbè, vieni tu, se vuoi venire vuoi intubare, vieni tu a intubare. Vabbè, ti telefono e vieni all'ospedale. A intubare, vabbè. Però davanti a tutti lo devi fare, io, tu e tutti. Però io so intubare, hai capito bello bene. Ma se non ce la fai, per tutte figure ti intubo io a te, bene fa. Io so intubare, sì, a voglia. e che tu non lo sai va. Io ho fatto il corso, lo so fare a intubare la gente, e anche Gianni lo sa fare. Ehi, ma io ti tubo di un'altra maniera. Ma cosa intubi tu, cosa intubi che si può cuomane? Senta a fare corsi, mi. Io ti metto anche la cannula, ti metto a te. Tu io che ti ho fatto due viaggi pure a moto. Ma mi sarei fatto dei viaggi di tipo uno di sabbia sui blocchetti. Ci possiamo provare il concorso dalla pedana e vediamo. E a tu, ma sono i buboni di blocchetti, e poi che sei proprio bisogno, ti vedi male a guida. E pure un carrellino la rete. Oh, lui. Senti a quello dove frequenti tu al circolo, se vi interessa qualche radio. Oh, io cosa, bah, mi ha fame che sul circolo. Oh. Lui che vanno a metterle su internet, trovi l'amatore, per il compagno, te le vuoi vendere? Cosa, Luca? Te le vuoi vendere, ho detto. No, quella sto vendendo, quella lì, non so se l'hai vista, che c'è una cofano, quella grande, quella l'ho fatta tutta revisionare, cambiate le valvole e tutto quanto. Quella minimo di 400 non la do, di meno no. Non lo so, mi trovo l'amatore, tutte queste cose. Oh, la figlia di Bianco, per me mi sto cambiando le lenzuola, dai. Ti viene più di guru, Vanni. Pensa anche lo culo, non lo appoggio, se quelli culo vanno e... E poi che gente non ti vanno accurato? Su chi è? Su chi andiamo? Su chi andiamo, là? E tu metti il marino, su chi andiamo? Su chi andiamo, vero? E te l'avevo più sentita Marina, appena fatto. Su, che andiamo un po' in pinetta. Ma che stai Marina, troppo forte. Ma da poco che non lo sento, troppo forte Marina. Ma non mi puoi chiamare queste cose in cui ce l'hai arrestate. Tuia, e su che, dopo di tanto tempo sono. E non ho messo sempre in occhio a modulare. Sì, dopo tanto un tempo, una guida è che non entravi. Un androne che non ti dico, un androne. cosa, cioè non ti chiamo, non ti considero neanche. Sì, ma chi è che c'ha la qualifica? Chi? Io guardo. Che gappalo, che guardo, va? Uno che conoscevo. Ma cosa è? Nella sicurezza lavora? No, stavamo in preparazione. Ah, boh. Ma dico, allora aspetti una cosa, che pare che gli enti cancano di travagliare quando ti la cancaghi? Non lo sai che cos'è, Antu, è gente incostata, ci mettono gente incostata che non capiscono una mazza. Sì, ma il problema è, ma cosa ti dura? Cioè, la mia chiamata a cosa ti dura una persona, cosa ti ne fai? Cioè, figlia un pezzino che ha la di travagliare, un po' le rimpari. Cazzo, magari ci sta per tanti anni, ci sta, lavora sempre per te. Ecco cosa dico io, mi dà rabbia. Perché ti qualifica se tu ti dà tu quando travagli? Non così. Cosa vuoi dire? L'Italia è così, è fatta nel contrario. È così. Ti stavo dicendo, fai la domanda lì alla Vigipo, fai lì la domanda alla Vigipo, te l'ho detto, fai lì la domanda alla Vigipo che stanno cercando, in via di mille. Ti fai il curriculum, se no è un casino, come fai? Ti ho con un mio altro, diciamo a voto, è un uomo. Luca, a tu, però vai lì in via Canica dove c'è la Cop Silvi, anche lì stanno cercando Pocherato. Cazzo, avvio, ma mi sembra il Marugu, se ti ho detto vai lì, te l'ha già detto un mese fa pure. Via Canica, lo sai dove? Ci sono due o tre vigilanze lì a fianco. E dopo dove c'è il coso dove verrà il pellet, vai lì, ma parlare del coso nel curriculum. Cazzo, ti mangi, allora devi pilare Anto. Lascia vedere. No. Il tempo deve mettere un'app per sapere quando deve fare di lì.